Mafia di Dario Ricci. Number 24, Kofi Delivering. You gotta love it. There are a lot of fans here in Toyota Center tonight wearing his jersey, cheering for that shot. Giving it up. Kobe with a reversal. And a timeout, Houston. Vintage Kobe Bryant. There's no place for us. Va via davanti a Marcello. Sulle tracce di Kobe Bryant, alla scoperta dell'Italia di Kobe. È il sentiero che segue oggi Olimpia. Oggi, che la morte del grande mito dei Los Angeles Lakers e del basket NBA è ancora vicina. Vicina come quel 26 gennaio in cui l'elicottero di Kobe si è schiantato sulle colline vicino Los Angeles. Catalizzatore di emozioni e ricordi, Kobe, così come tutti i grandi campioni, che con le loro imprese puntellano la storia dello sport, ma anche la vita di ognuno di noi. E Bryant, come ahimè siamo stati costretti in fretta a riscoprire, tante di queste emozioni le aveva radicate in Italia, nel nostro paese, dove tra i 6 e i 13 anni aveva seguito papà Joe, asso del nostro campionato di basket di Serie A, nella seconda metà degli anni Ottanta. Anni italiani che Kobe ricordava così, in un'intervista con Linus e Nicola Savino a Radio DJ nel 2011. Io sono cresciuto qui in Italia. Allora sarà sempre un posto che sarà vicino al mio cuore, sempre. Quali sono le città dove hai vissuto? Pistoia, Reggio Calabria, la prima Reggio città Emilia? Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e poi Reggio Emilia. E hai mantenuto un po' di amicizie di quegli anni? Sì, era un po' più difficile per me perché io sempre sto lavorando, però amici in Reggio Emilia, perché Reggio Emilia era l'ultima città. Ah, ok. E quindi eri già abbastanza anni, grande. Sì, ricordo un po' più di miei amici. Dell'Italia e di noi italiani amava tante cose Kobe, ma più di ogni altra l'intensità, la forza dei sentimenti che siamo capaci di provare e che ci legano ad amori e affetti. La passione per la vita, la passione per giocare a pallacanestro e fare la cosa che ami con tutto il cuore. Sempre la passione in Italia, la passione con la famiglia, sai, con i figli, con tutte le cose che è importante per te, per avere nella tua vita, è rimasta sempre con me, sempre con l'Italia, era sempre un posto nel mio cuore. Passione che diventava desiderio forte e non sindacabile di vittoria. Devi lavorare ogni giorno, quando ti svegli nella mattina devi fare lavoro ogni giorno come può essere il tuo l'ultimo giorno di vivere. Questa mentalità che ho preso quando ho cambiato il numero a 24. Mito dei Lakers, Kobe aveva anche accarezzato l'idea di giocare in Italia, in particolare nel 2011-12, quando lo sciopero dei giocatori NBA lo aveva avvicinato per qualche settimana alla Virtus Bologna. Sono stato molto fortunato, ho cominciato la mia carriera quando avevo 17 anni con i Lakers e adesso, 15 anni dopo, sono ancora lì giocando. E rimarrai lì fino alla fine, credo, che sarà comunque lontanissimo. Sicuramente, nell'NBA sì, non c'era un'altra squadra con cui vado a giocare. Io mi ricordo, poco tempo fa tu hai detto, mi piacerebbe una volta finita l'avventura nell'NBA, giocare qualche anno qui in Italia. Adesso sembrerebbe che questa possibilità si sia materializzata così a metà strada quasi. Lo so, però quando ero piccolo sempre ho avuto un sogno di giocare qui in Italia, perché guardate mio padre, cose così, e adesso c'è un'opportunità che magari io posso giocare qui per, non so, un mese, due mesi, tre mesi, non so, però mi piacerebbe molto, sì.

si mise a piangere toccandosi il ginocchio e noi tutti accorremmo a vedere cosa fosse successo e lui, sempre un po' piangendo, disse che questo infortunio avrebbe potuto pregiudicare la sua, diciamo, carriera nell'NBA, e noi chiaramente scoppiamo in una risata assoluta, perché all'epoca nessuno avrebbe pensato che avrebbe raggiunto i livelli che ha raggiunto. E fra pochi istanti torneremo proprio nella Reggio Emilia di quegli anni e entreremo in quello spogliatoio, ancora sulle tracce di Kobe Bryant. Olimpia. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. Amore sconfinato e ricambiato per la pallacanestro. Questo aveva celebrato Kobe Bryant nella sua lettera d'addio al basket. E poi in questo cortometraggio, Dear Basketball, caro basket appunto, che gli valse addirittura l'Oscar appena un paio d'anni fa. Ricordi che il tragico incidente d'elicottero di domenica 26 gennaio ha spinto nell'abisso, ma che sono poi tra le cose più preziose che ci rimarranno di Kobe. Preziosi quei ricordi, anche perché, come vi stiamo raccontando oggi qui a Olimpia, quell'amore per la palla a spicchi nasce e si radica proprio qui in Italia, negli anni che un Kobe bambino ha vissuto nel nostro paese seguendo la carriera di papà Joe. E allora proviamo a ritornarci oggi, nella Reggio Emilia della seconda metà degli anni Ottanta, quando Joe infilava canestri in Serie A con la maglia della pallacanestro reggiana e Kobe lasciava a bocca aperta i compagni e gli allenatori della squadra di mini basket. Andrea Menozzi è stato il primo allenatore di Kobe. Kobe è arrivato da noi che aveva 11-12 anni, perché il papà è venuto a giocare nella nostra prima squadra dopo aver militato in altre squadre in Italia, per cui insomma si è trasferito con la Reggio Emilia con la famiglia, è arrivato anche Kobe e allora lo abbiamo inserito nelle nostre squadre giovanili, quindi da quando è arrivata la famiglia abbiamo cominciato a conoscere anche Kobe. Tutti conoscevano questo ragazzino che a volte era presente a vedere gli allenamenti del papà quando non erano in contemporanea con i suoi, e poi durante le partite di campionato era in parterre, correva attorno al campo, correva in mezzo al campo, insomma diciamo che hanno imparato presto a conoscerlo tutti. Il talento certo non mancava al piccolo Kobe, ma difficile immaginare allora che sarebbe diventato il più grande di tutti e sullo scenario più grande. Appena abbiamo visto in palestra ci siamo accorti che era bravo, decisamente, probabilmente nettamente più bravo dei ragazzi della sua età, tant'è che per la prima stagione che è stato a Reggio lo abbiamo inserito nella squadra con i ragazzi di un anno più grandi, squadra allenata da Mauro Cantarella, perché insomma pensavamo che per lui fosse meglio, potesse trarne giovamento, insomma essere inserito in un contesto un pochino più competitivo. A fare la differenza, più che la bravura, era ancor di più appunto la determinazione, ricorda coach Menozzi. Kobe è sempre stato un bambino come gli altri, devo dire, rispetto agli altri probabilmente prendeva un po' più seriamente l'attività sportiva, insomma, ecco, diciamo che se per un ragazzino di 12 anni giocare nell'NBA è un sogno normale, insomma, che hanno tutti. Per lui, insomma, si capiva anche da come parlava, era un sogno che però lui aveva messo nel mirino, come fanno tanti, però insomma con un pochino più di determinazione probabilmente. We have given each other all that we have. We both know. No matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock. Ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Il coach, i compagni di squadra, due anni indimenticabili, quelli che molti ragazzini di quella squadra passarono fianco a fianco con quello che sarebbe diventato il più forte giocatore di basket al mondo. Davide Giudici era uno di quei bambini. Kobe era fortissimo, aveva grande, grande volontà e aveva una mentalità già da professionista, nonostante fosse veramente un bambino, poco più, perché parliamo di età tra i 10 e gli 11 anni. Diciamo che probabilmente tutti si aspettavano che sarebbe diventato un giocatore di basket professionista in Italia, che già era, insomma, non era così scontato, parlando appunto di un bimbo. Nessuno ovviamente poteva prevedere che sarebbe diventato quello che è diventato, insomma, una leggenda dello sport mondiale. Sul perché il piccolo Kobe faceva allora già intravedere i tanti pregi e anche gli inevitabili minimi difetti che avrebbero segnato la sua carriera da top player. Era un giocatore, diciamo, con la mentalità che poi ha sempre avuto nel proseguo della sua carriera, quindi, diciamo, molto concentrato su se stesso, sul fare canestro, e, diciamo, passava pochissimo la palla, ecco, per non girarci troppo intorno. Però era veramente, sia fisicamente che tecnicamente, era molto molto più avanti di tutti noi, nonostante noi fossimo una discreta squadra con delle buone individualità. Però lui veramente aveva già un repertorio di giocate, già mano destra, mano sinistra, senza grosse differenze. Schiacciava, per esempio, nei canestri bassi, perché se parliamo ancora di mini basket, ma diciamo che era l'unico della squadra che arrivasse a schiacciare. Diciamo che l'azione tipo di Kobe era prendere il rimbalzo, scartare tutti gli avversari e andare a segnare, diciamo, con un sottomano o un tiro da fuori, o anche a schiacciare dall'altra parte. Fuori dal campo poi quei cestisti in erba si rivelavano per quello che erano davvero: bambini che amavano stare insieme, scoprire il mondo insieme. Anche se, ricorda Davide, la devozione di Kobe per la palla a spicchi era pressoché assoluta. Noi ci vedevamo quasi quotidianamente durante gli allenamenti. Poi Kobe, non vivendo in città qui a Reggio Emilia, ma era, diciamo, abitava in un paesino appena sotto le colline, diciamo così. Lui, finito l'allenamento, spesso ovviamente tornava a casa, dove continuava ad allenarsi, aveva un canestro appeso nel cortile di casa, e lui, diciamo, che preferiva tornare a casa ad allenarsi piuttosto che uscire con gli amici. Poi ovviamente è capitato che ci siamo visti fuori dal campo, è capitato spesso, però diciamo che lui era molto più contento di continuare ad allenarsi che venire a prendere un gelato con gli amici. Il ritorno dei Bryant negli Stati Uniti rompe quelle abitudini, non il legame intenso di Kobe con quei compagni di squadra, quegli amici d'infanzia. Dopo la sua partenza per gli Stati Uniti ci siamo ovviamente un pochino persi di vista, abbiamo perso un pochino i contatti, anche perché ai tempi non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, non c'erano tutte questi mezzi di comunicazione che ora facilitano molto diciamo il mantenimento dei contatti anche con grandi distanze. E diciamo che usavamo un pochino le sue sorelle per tenere un pochino i contatti, e nel 97, al termine del suo primo anno NBA, fu lui che fece arrivare il messaggio a Christopher, a me, a Nicola, agli amici, insomma, di un tempo, che sarebbe ripassato da Reggio e che avrebbe avuto molto piacere di passare qualche ora insieme. E fu così, perché ci incontrammo nel centro di Reggio Emilia e passammo un normalissimo pomeriggio italiano a passeggiare, a chiacchierare davanti a un gelato. E dopo, negli anni successivi, diciamo che era ovviamente più lui che faceva recapitare dei messaggi e anticipava un pochino il suo arrivo, piuttosto che il contrario, perché ovviamente, insomma, la privacy di una persona, di una leggenda dello sport, diventa uno scudo abbastanza difficile da girare, ecco, diciamo così. Quindi diciamo che noi non riuscivamo a chiamare Kobe e a salutarlo, ecco. Ci penserà lui a farsi vivo, nel modo più sorprendente e inatteso, nell'estate del 2016, ricorda ancora Davide Giudici. Kobe era in Europa per un tour promozionale e aveva fissato tre date. La terza data a Parigi saltò per motivi di sicurezza, c'era stato un attentato il giorno prima, purtroppo, e cancellando quella data serviva un piano B. La seconda data, quindi dove si trovava lui, era a Milano, e lui chiese di organizzare qualcosa a Reggio Emilia, ovviamente per facilitare l'organizzazione, ma anche e soprattutto per avere voglia di rivedere la città che lo ha ospitato per due anni. Ci chiamarono il giorno prima, praticamente, del suo arrivo, chiedendoci di organizzare una cosa molto intima, molto, molto circoscritta, e fu molto bello, perché effettivamente lui entrò in questo cortile di questa scuola dove noi siamo cresciuti e ci siamo visti, ci siamo salutati, ci siamo abbracciati. Io gli ho chiesto come stava, lui mi ha chiesto se io giocavo ancora e io gli ho risposto sì, gli ho detto ma tu invece, che perché lui aveva appena smesso, e lui mi ha detto io no, ma ero un po' stanco, mi ha detto, insomma, nel senso che aveva dato, ecco. Ricordi che oggi sono più preziosi che mai, per perpetuare la memoria e lenire il dolore. Davide Giudici ha già un'idea per perpetuare anche nella sua, nella loro Reggio Emilia, il ricordo di quel bambino che proprio qui in Italia cominciò a sognare di diventare un giorno il re dei canestri. Qui a Reggio, il giorno dopo, il sindaco ha dichiarato che verrà dedicata una piazza antistante al palazzetto dello sport, che è una cosa sicuramente molto bella, molto carina. Mi piacerebbe che non fosse solo un luogo così statico a ricordare Kobe, ma magari trovare il modo di creare uno spazio, un campo, una palestra dove bambini o ragazzi meno fortunati che magari fanno fatica ad accedere alle strutture potessero andare e allenarsi come poi lui ha creato a Los Angeles. Ecco, questo secondo me sarebbe ancora più bello.